Things have come to a pretty pass. Our romance is growing flat. For you like this and the other, while I go for this and that. Goodness knows what the end will be. Oh, I don't know where I'm at. It looks as if we two will never be one. Ci siamo, ci siamo, ci siamo. Something must be done. You say either, and I say either. You say neither, and I say neither. Either, either, neither, neither. Let's call the whole thing off. Martedì 25 ottobre, Spirito di Patata, terza puntata della terza stagione. Potato, potato, tomato, tomato. Let's call the whole thing off. But oh, if we call the whole thing off, then we must part. And oh, abbiamo un sacco di cose per voi. Eh sì, eh sì, eh sì. Strabilianti. Così I'll wear pajamas and give up pajamas, for we know we need each other, so we better call the calling off. Let's call the whole thing off. Say laughter and I say laughter. You say after and I say after. Laughter, laughter, after, after. Let's call the whole thing off. You like vanilla and I like vanilla. You sarsaparilla and I sarsaparilla. Vanilla, vanilla, chocolate, strawberry. Let's call the whole thing off. But oh, if we call the whole thing off, then we must part. Dai, dai, dai, dai, siamo qua. Non è... If we ever part, then that might break my heart. Pronto? Ci siamo, ci siamo. Sì, pronto, bro, pronto, pronto. Ci siamo, oh, sì. Ma che... Oh, pronto. No, ci siamo, abbiamo anche un sacco di cose, abbiamo un sacco di sorprese, abbiamo l'esclusiva qua a Spirito di Patata. Spirito di Patata è andata per voi a intervistare la donna della strada, è andata a intervistare, quindi abbiamo l'esclusiva, altro che Repubblica, ragazze, altro, altro, ma questa carta ce la giochiamo tra qualche minuto. Prima parliamo un po' di web, parliamo un po' di rappresentazione e autorappresentazione di se stesse. Già con questa cosa le nostre radioascoltatrici abituali, dopo una volta dico autorappresentazione, scapperanno via. Esatto, no, non vi preoccupate, non vi preoccupate, siamo rimaste noi, siamo sempre noi di Spirito di Patata, la linea comica del martedì autogestivo da femministe e lesbiche, siamo sempre noi, le burlone. Le burlone. E dico... innanzitutto domani tutti a casa. Ah sì, vabbè, facciamo un attimo il discorso, facciamo, da bar. Allora, sapete che si dice, ma poi no, ma gli uomini fanno i discorsi da bar sport, noi facciamo i discorsi da quando vai dal parrucchiere. Ma okay, che parrucchiere? Questo è quando compri il giornale la mattina all'edicola, solo che siccome lo fanno in pochissime in Italia, il risultato è che non lo si può usare come esempio, però io ne parlo con la mia edicolante di fiducia. Ok. Però il discorso è questo, è previsto il nubifragio. Ora, considerato che noi ce la potremmo anche fare, ma la città evidentemente no, è lietamente consigliato stare a casa domani. State a casa, prendetevi questo tempo per voi, visto che pioverà a catinelle, e visto come è andata la settimana scorsa, forse ci potremmo attrezzare in un altro senso. Allora, oggi stavo seguendo... E comunque il meteo tira tantissimo, adesso c'è un picco di indice di ascolto, come insegnano le minori audience. Non so se anche tra il nostro pubblico medio tira. Comunque io volevo dire questa cosa. No, il medio tira sempre, raga, perché ti alzi se devi progettare la tua giornata di domani, ci sono tante cose da fare, che scherzi. Comunque, ormai tanto lo sapete. No, però oggi c'era alla Camera, proprio in questo momento, questo pomeriggio, c'era una discussione sui fatti del 15 ottobre. Pare che ci siano stati 5 milioni di danni, mentre pensa giovedì solo con alluvione ce ne sono stati 250.000 di danni. Ma non lo sai alle case private e quant'altro, quindi... Qualcuno diceva che l'acqua, adesso infatti Alemanno ha vietato all'acqua di manifestare per un mese, ma visto il medio dice che domani sarà di nuovo in piazza. Mi raccomando, mandate le foto delle goccioline a Repubblica, che così poi dopo se le mandano bevuti. Questa non l'avevo preparata, questa battuta, ma... Sì, e poi le rubiamo un po' da internet, perché... Vabbè, sarei una bugiarda se non lo dicessi. Va bene, adesso io però voglio parlare di autorappresentazione nei social network. Allora, perché autorappresentazione? Perché tu hai il tuo profilo Twitter, Facebook, non so che altro, MySpace e quello, e devi, c'è sempre scritto chi sei e ci metti la foto. Scrivi tipo in 250 caratteri chi sei. Tipo, io già avevo il vuoto in terza elementare, mi dicevano pensierino. Fai una descrizione di te stessa. Che cosa scrivo? Ecco, va bene. Voi avete questo spazio, ci potete pensare più di quelle due ore del compito a scuola, ma ci potete pensare anche una settimana intera, e dovete scrivere come volete essere, ma soprattutto come gli altri vogliono. No, vogliono che voi siate come tu vorresti che gli altri ti pensino. Sì. Mamma mia, come tu vorresti che gli altri ti pensino. E Lorella Zanardo di Il Corpo delle Donne fa questo post abbastanza provocatorio su, che dice: mi chiamo Lorella, ho 18 anni, taglia 38 e sono Miss Universo. Tanto, ah, però. Tanto se tu lo scrivi, la gente ci crede e ti richiede, che ne so, l'amicizia, parla con te come se tu veramente lo fossi. Basta poco. E tu puoi dire quello che ti pare, quello che ti fa più comodo. Tanto ti credono, ti giuro che ti credono. E c'è anche chi poi si spaccia per gli uomini che si spacciano per donne nella rete, magari per adescare meglio, non so, perché pensano che poi hanno più amicizie, sono più simpatici, non lo so. Allora io faccio una domanda a te, mia cara spalla, sì. Oppure mio caro gomito nel fianco, vi ricordo intanto la parentesi della parentesi. Lei mi vuole sempre licenziare. Io voglio licenziare la mia crew, quindi lei non voglio più che sia la mia spalla. Fatevi avanti, ascoltatrici, potete venire qua ai microfoni di Spirito di Patata. Basta che mandate un'email a mfla@ondarossa.info, scrivete come oggetto: voglio essere la spalla di Spirito di Patata, oppure un ginocchio, non lo so, volete darmi un calcio, un piede, quello che vi pare, una mano, un bacio, quello che volete. Ma vediamo un po' se riusciamo a rottamare la nostra clou che non fa ride. E quindi che Spirito di Patata è la linea comica, quindi scusate, bisogna stare al passo coi tempi. Quindi tu come vorresti essere, Clo? Come ti immagini? Devi mettere come ti autodefinisci? Come ti autorappresenti? Guarda, se uno volesse metterla sul triviale, io direi che sono come Shane. Sai poi come va a finire? Va a finire benissimo. Allora, però, per chi non ci sta così addentro, vabbè, cose, Shane, che sì, Claudia si autorappresenterebbe come una nota e fantastica protagonista di The L Word, che è la più gnocca. Ma non solo che... io, comunque, penso che l'elenco sarebbe lunghissimo. Il problema poi è la prova dei fatti. Io invece... Lei ha scritto degli appunti, io perché appunti, non è ancora convinta, cioè, di come... ci ha pensato su... No, perché avevo fatto una riflessione su questo, perché è un gioco che possiamo fare tutte, possiamo dire, come vogliamo. Anzi, noi, tra l'altro, cioè, siamo ai microfoni di Onda Rossa e noi vi raccontiamo come siamo. In teoria io posso dire: sono alta 1,77, sono bionda, cioè capelli lunghi, e voi in teoria ci credete, perché tanto non mi vedete, quindi io posso dire quello che mi pare. Potreste farlo anche voi, chiamate allo 0649 1750 e ci raccontate come siete. Però io devo dire che ho fatto pure pace con questa cosa. Ecco, questo è quello che volevo dire oggi alla radio. Io ho fatto pace con questa cosa. Le ascoltatrici, io posso dire tranquillamente tranquillamente anche su un qualsiasi status, peso 70 kg, sono quindi un po' in carne, non ho la 44 ma è una 46, che a volte la mattina dico cacchio, mi devo andare a comprare un altro paio di pantaloni perché mi sa che sono arrivata la 48, insomma ci ho fatto pace con questa mia identità, perché al di là delle mie caratteristiche genetiche, che quelle sono, molto di come di come sono e di come poi mi autorappresento è una cosa che ho scelto consapevolmente. Assolutamente sì. E poi sì, diciamo che è una grande fortuna scavallare questa questione del corpo, soprattutto perché appunto c'è un bombardamento continuo, è un autorimando di tutto, sempre questo solito discorso: sono magra, bella, bionda, con gli occhi azzurri, che però è uno stereotipo talmente generale, generalizzato, che alla fine dice vabbè, ma anche basta, no? Nel senso, è più carino il discorso che facevamo, ecco, vorrei imparare altre lingue. Infatti, perché al di là appunto di come sono esteticamente, mi piacerebbero altre cose, altre caratteristiche, altre qualità. Mi piacerebbe dire, che ne so, so il cinese. Sì, oggi sarebbe molto utile. So il cinese, oppure so scrivere con la mano destra e con la sinistra. Che non lo so, boh. È Satana, è Satana, l'abbiamo scoperto, è Satana. Va bene. Sì, è così. Certo, nel mondo dei fake, l'originale che cos'è, qual è e quanto. E poi è buffo perché in tutta questa questione del originale, non originale, vero o non vero, stereotipo o non stereotipo, e poi che c'è in sostanza? In sostanza, in sostanza ricadiamo sempre su una serie di categorie molto fisse, molto chiuse, molto statiche, molto preordinate, molto che non si discostano. Basta vedere le pubblicità, basta vedere i discorsi di senso comune che riguardano le donne. Quindi alla fine è sempre una riproposizione delle solite cose, che non fa altro che rimandare sempre la stessa immagine, e tu ti autorappresenti con un'immagine che è quella del sistema, e bidi bimbo, cioè non finisce più sta storia. Però la stessa Zanardo, no? Appunto, liberiamoci, fai capire, fa presupporre che siamo piene di gabbie, delle gabbie di stereotipi che ci impongono, che vogliono che ci autoimponiamo, che imponiamo anche alle altre. Guarda quella, c'è la cellulite. Esatto. Guarda quella, quando va vestita così, imponiamo quindi anche all'altra, perché incorporiamo nel vero senso della parola degli standard culturali, e poi tentiamo di imporle anche alle altre. Però appunto a parte queste gabbie che ci sono, di cui dobbiamo tirarcene fuori, ci sono altre gabbie ancora, che sono quelle delle categorie. E la Zanardo poi, dopo aver detto sì, è vero, posso dire di avere 18 anni, essere Miss Universo e tutti quanti mi credono, però allo stesso modo, se io dico che mi piace, che ne so, il tailleur della Carfagna, o mi piace come si veste un altro che non è del mio schieramento politico, trovo. Comunque, ecco, permetti che appunto dici che semplicemente ti piace il look di tal dei tali. Mamma mia! Non c'è, oppure ti piace fare, cioè, fece pure una canzone Gabber, la doccia di sinistra, la vasca di destra, una cosa del genere. No, ci ficchiamo in altre categorie. No, è un impellente bisogno di mettere tutto in ordine, quando poi in realtà di cose in ordine ce ne sono veramente poche, e forse neanche ci servono, e sarebbero anche noiose se fossero tutte in ordine. Però sì, abbiamo questo assoluto bisogno di mettere le etichette alle persone su anche delle singole opinioni, che effettivamente poi non sono rappresentative, perché uno può pensare una cosa, però finisce anche lì, nel senso, dovresti, prima di tirare dei giudizi sull'altra o l'altro, uno dovrebbe avere un'idea un po' più profonda. Solo che oggi viaggiamo tutti in superficie. È vero questo, è vero pure che questo desiderio di mettere uomini e donne dentro dell'insieme viene pure dal fatto che i social network, almeno il social network per eccellenza come spillo di patata, è nato non per farci scambiare dei saluti e sapere quanti figli ha fatto il nostro ex compagno di scuola che non vedo da 20 anni. E comunque Carlà non l'ha chiamata Dalia, la bambina. Non l'ha chiamata Dalia. Non so chi se ne inventata questa storia, ma l'ha chiamata Giulia. Però ecco, però appunto i social network nascono per capire e capire meglio i tipi di consumi delle persone, indirizzare meglio la loro pubblicità. Quindi nel momento che a te ti può piacere, che ne so, la Ferrari, e poi dopo però, che ne so, anzi, nel momento che ti piace Steve Jobs e la mela, e poi, che ne so, sei un po' a sinistra, forse queste cose non funzionano bene, però siamo esseri umani, sono le contraddizioni. E siamo pieni di contraddizioni. Siamo pieni di contraddizioni e ai sociologi capire queste contraddizioni. Adesso ci ascoltiamo. Noi invece ascoltiamo un brano così. Un brano, così, così basta, che a me mi dicono che parlo troppo veloce. Sì, sembri con quest'ora e mezza. Automin concesso, come dicono le pubblicità. Ma io elugubro molto in queste due settimane in cui so che ci sarà spirito di patata. Adesso voglio che le ascoltatrici telefonano con lo zingare in mano e ci danno il significato preciso della parola elugubrare. The Puppini Sister, I Will Survive. I was afraid, I was petrified. Kept thinking I could never live without you by my side. But I spent oh so many nights just thinking how you did me wrong. And I grew strong, and I learned how to get along. And so you're back from outer space. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid lock. I should have made you leave your key. If I had known for just 1 second you'd be back to bother me, go on now, go. Walk out the door, just turn around now, 'cause you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to hurt me with goodbye? Did you think I crumbled? Did you think I lay down and die? Oh no, not I will survive. Oh, as long as I know how to love, I know I'll stay alive. 'Cause I've got all my life to live, and I've got all my love to give, and I'll survive. I will survive. All the strength I had not to fall apart. Can't try hard to mend the pieces of my wrong. But I spent oh so many nights just feeling sorry for myself to cry. But now I hold my head up high and you see me, somebody new. I'm not that chain of little person still in love with you. And so you felt like dropping in and just expect me to be free. But now I'm saving all my loving for someone who's loving me. Go on now, go. Walk out the door. Just turn around now, 'cause you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to break me with goodbye? Did you think I'd crumble, crumble? Did you think I'd lay down and die? Oh no, not I will survive. Oh, as long as I know how to love, I know I'll be alive. 'Cause I've got all my life to live, and I've got all my life to give, and I'll survive. I will survive. Eccoci tornate. Eccoci. Sì, sì. Tu mi sturi sempre le orecchie quando parli. Perché io ho la voce squillante. Perché c'è la... Allora, voi pensate che voi pensate, giornali... innanzitutto. voi pensate che nei giornali c'è tanta monnezza, vero? No, ma che dire. Allora, sfatiamo questi miti. Ci sono dei giornali che fanno dei servizi che aiutano le persone a stare meglio con, se stessi. Allora, uno dei nostri preferiti è ovviamente Men's Health. Sì, vi avevo già detto il che... piacere di essere uomo, attenzione. Sì, che Men's Health è un giornale la salute degli uomini, ma che soprattutto dà consigli. Mi ricordo quello dell'anno scorso a Natale, come cuccare alla festa dell'ufficio, oppure come fare le... Che poi cambia anche idea, perché ne abbiamo letto un altro oggi, scusa, diceva l'esatto opposto, ma no, come fare le addominali, le 10 posizioni per fare le addominali mentre fai sesso. Vabbè, insomma, questo è un po' il tenore, perché si vede che loro pensano tanto alla relazione con l'altro quando fanno, pensano agli addominali. Sì, sono concentrati proprio sul piacere della compagna. Esatto, soprattutto invece nel mentre stanno dicendo se mi metto così mi vengono meglio questi addominali. Pensate che fortuna, ragazzi. Era proprio questo quello che succedeva. E ma non finisce qui oggi. Non finisce più oggi. Io vi dico che c'è di peggio su questo giornale. No, non è peggio. Comunque, vale, cioè, non puoi essere così distruttiva. Allora, innanzitutto ci sono degli articoli interessantissimi, ma possono essere anche interessanti per le nostre ascoltatrici. Aspetta. Prima di dire l'articolo, di raccontare un po' dell'articolo, io mi sono un attimo appuntata. Quanto sei seria? Sono proprio seria. Io ho studiato. Io mai. Mi sono appuntata le tag che sono più taggate, le tag più frequenti, allora, di questo spieghiamo, sito. Spieghiamo. Allora, lo sanno benissimo che cos'è una tag. Allora, le tag principali di Men's Health sono addominali. Vedi, che è un catofisso praticamente. Addominali, sesso. Vabbè. Però io posso dire una cosa, che addominali viene prima di sesso. Addominali era più taggato di sesso. Sì, raga, addominali, sesso, niente. Fitness, che è uguale addominali, come mascherato. Sì. Sexy, sport e trucchi. Trucchi? E trucchi è tipo il trucco per cuccare di più. Ah, trucchi il in quel trucco senso, non nel mangiare. Senso di maquillage. Sì, no, è il trucco con lei. Va bene, noi abbiamo trovato sotto il tag sesso, perché noi siamo un po' pruriginose, un po' così. Non lo so, devi parlare come mangi. Maliziose. abbiamo visto che c'era questo qua che era come prendergli le misure. Ah, che cosa? Indovinate un po', cari ascoltatrici, vi lasciamo l'immaginazione. Ma soprattutto la cosa più bella è che lo puoi fare solo se hai un metro da sarta. Sì. Altrimenti non si può fare. È una cosa improbabile, improponibile. Però, allora, visto che prima ho detto che l'importante è stare bene con il proprio corpo. Quindi questo è un consiglio che non vi leggo come si deve fare, perché non mi sembra proprio importante. Se volete, per andare a cercare come si prendono le misure. È fondamentale. Ma vi leggo le ultime 3-4 righe per capire che anche voi. Comunque, uomini... raga, un articolone, perché sono 2, 4, 6, 8, 10 righe. No, poi continua qua. La lunghezza in riposo, la lunghezza in elezione, circonferenze. No, tutto, ci sono tutte. Okay. Quella è la premessa. È la prospettiva ortogonale, quella. Cioè, lo puoi fare. Poi le prendi, poi lo metti sul tuo computer, che sei un nerd. Attacchi, te lo fai in 3D e te lo riproduci. Sì, sì. No, però non è. Ecco, vedi, Claudia, stai scadendo. Non è importante questo, sì, perché noi abbiamo detto oggi dobbiamo fare una puntata. Serio? Noi ci danno dei consigli. Non è la serie, noi ci danno dei consigli. È importante stare bene con il proprio corpo, quindi questo è collegato, siccome voi ci avete la fissa, allora noi vi leggiamo questa cosa. Quindi, per prima cosa, consiglio a Men's Health: smettetela di guardarlo dall'alto, ti dà un'impressione. Staccatevi la testa! Ti dà un'impressione sbagliata delle dimensioni, e comunque non è da lì che lo guarda lei. Secondo, misuratelo nel modo corretto, utilizzando un metodo a sarto e un righello, e confrontando le tue con le dimensioni medie basate su studi condotti negli USA e in Australia. Che paura che mi fanno. Ecco, quindi cioè, adesso non fate commenti inutili, non fate battute facili. Questo era un articolo perla che potete trovare su Men's Health. Vi dico che c'è gente che, se tu lo trovi, ma anche nelle dalle parrucchiere, che siccome ogni tanto hanno qualche taglio da uomo, sì, si trova Men's Health. Quindi strappate qualche pagina, speditecela quando le trovate. Sì, sì. Quando trovate queste cose, fate una foto con il vostro telefono oppure strappate la pagina e mandatecela a Via De Volsci 56, mettete MFLA o Spirito di Patata, tanto noi capiamo, e ci aiutate a a rendere questo servizio a tutte e a tutti in questo caso. Adesso però, adesso il comunque tempo non era finita, non era finita, no, non la possiamo leggere tutta perché io mi rifiuto, mi sono rifiutata di leggere la 27esima ora, mi rifiuto pure di leggere queste cose. Ci ascoltiamo Africans Neka e poi ragazzi, care radioascoltatrici, cari radioascoltatori, tutte davanti all'altoparlantino della radio, sì, perché abbiamo l'esclusiva, computer. Abbiamo l'intervista della donna della strada, quelle donne che la televisione chiama violente, quelle donne che la 27esima ora, i blog, chiamano. E Daria Bignardi pure ci si è messa, chiamano, sì, perché dice che le donne non c'erano in piazza, eravate tutti uomini, io non le ho viste, quindi quelle donne invece noi le abbiamo incontrate. Regaliamo un paio di occhiali alla Bignardi, innanzitutto mozione, visto che Santoro chiede 10 euro, noi chiediamo 10 centesimi per la Bignardi, tutte gli possiamo regalare un paio di occhiali, così forse si accorgerà un po' meglio di quello che succede sempre nel mondo reale, però fuori dalla televisione. Adesso ci sarà lo stacco musicale e poi torniamo con lo scoop. Lo scoop. Hee hee. Rebecca Africans, Wake Up Africa. E Siamo arrivate, è il momento, cruciale. Vi faremo ascoltare un documento importantissimo, è un inedito. Fondamentale, un inedito. Avete sentito già tanti fake, avete visto su Repubblica le immagini della madre Black Bloc. Noi abbiamo già fatto un'analisi dei microfoni proprio del martedì, la scorsa settimana è uscita una parziale analisi sui fatti del 15 ottobre. Adesso noi abbiamo lo scoop della donna della strada, che anche lei era impegnata il 15 ottobre negli scontri, poi non so se ha capito bene quello che stesse succedendo. È un'esclusiva proprio per Spirito di Patata, la mandiamo in onda. Cioè, allora io credo che sia importante rilasciare un'altra dichiarazione, perché cioè io vorrei dire che non è che sto indignata, cioè, a me mi rode proprio il culo, perché i sconti non sono più quelli di una volta. Sconti, cioè da quando c'è stata la crisi mi devo comprare a Louis Vuitton tarocca, cioè una cosa che non si è mai vista, capito? Allora io sono scesa in piazza e ho tirato i sassi, ho dato pure le bastonate, perché cioè così non è che si può andare avanti con queste cose. Ma com'è rivestita? C'avevo la felpa Dolce Gabbana, poi mi ero messa il pantalone Armani Total Black, perché cioè stava, no? E poi c'avevo il passamontagna dei cashmere che uso quando vado a Cortina, e poi c'avevo la kefia di Gucci che ha lanciato, no, sto modello molto alternativo, così molto contemporaneo, e poi c'avevo i capelli legati con una coda semplice, andavo a fare gli scontri semplice, una coda di cavallo. E il rossetto? No, il rossetto mi pareva un po' superfluo, allora c'avevo solo lo stick alla fragola, quello protettivo. Lo smalto? Lo smalto, guarda, è una tragedia, cioè mi sono saltati 3 brillantini dalle unghie, ma erano appena fatti una settimana prima, e mi sono saltati, cioè mi è saltata il Lochitti dal mignolo e mi sono saltati pure i brillantini dalle unghie. Senti, invece solitamente che leggi? Cioè io penso che leggere è importante, cioè ti fai una cultura, e mi sono letta tutti moccia, tutto, pure Scusa se ti chiamo amore ho letto, pure che non era tanto bello come gli altri. Poi cioè io mi informo e cioè che ti dico, quando comunque sto online, insomma, cioè su Repubblica.it ce vado, altrimenti mica rilasciavo la dichiarazione, no? Senti, ma ce l'hai il profilo di Facebook? Sì, certo che ce l'ha, ce l'hanno tutti, no? Ma ti sei taggata durante gli scontri? Guarda, cioè non è che te lo vorrei dire proprio così, ma che pensi, che sto tutta scema? E per quale motivo stavi in piazza? Perché, cioè, io l'ho detto, non è che, io non c'ho un futuro, non posso fare tutte le cose che comunque sono abituata a fare, e che hanno fatto tutti prima di noi, e cioè, ti pare che ne so, se io mo me dovrebbe comprare la casa a Sabaudia, mica lo posso fare, cioè comunque noi abbiamo uno stile di vita, e te non è che mi vuoi togliere tutto proprio così. Ma chi te lo sta togliendo? È il sistema. La voce della testimonianza della donna della strada, anche lei penso che si sia un po' confusa. Lei pensava che ci fossero gli sconti per strada, invece ha trovato che c'erano gli scontri, quindi si è trovata un po' così in difficoltà, però è andata comunque avanti e si è fatta rispettare. Certo. Che lei era andata là per gli sconti. Sconti, che è vero. Perché non sono più quelli, non sono più quelli di una volta. No, gli sconti non sono più quelli di una volta. Questa cosa è verissima. Tutti imbrogliano e quindi è giusto. È giusto, ma penso che adesso Repubblica se la comprerà questa testimonianza, ma noi non gliela venderemo mai. No, neanche... no, e poi ne abbiamo un'altra che abbiamo trovato anche questa in rete. Ascoltiamo Gwen Stefani, What You Waiting For, che avevo preparato prima di fare il pasticcio. What an amazing time, what a family, how did the years go by, now it's only me. What you waiting for? Cosa stai aspettando? Riprenditi la piazza per gli sconti. Per gli sconti. Ovviamente tutto questo è per fare un po' di gioco, di ironia, visto che tanto qui inventano tutti. Perché inventa for you. Soprattutto i nostri media mainstream. Repubblica, diciamo, ha un'alta capacità di fiction. Ah, ma perché se lo fanno loro non possiamo farlo noi? A questo punto ci piace, no? Dare l'immagine di... Certo, no, ma ne possiamo inventare quante ne vogliamo, anche perché c'è tutto e ci siamo tutte. Ci sono tantissimi modi e motivazioni, ma ne abbiamo già parlato, quindi non c'è bisogno di continuare questo... Di infierire! Di continuare questo discorso. Sono le 18.02, vi ricordiamo che siete all'ascolto della trasmissione di Femminismo Pop Spirito di Patata, siete sugli 87.9 di Radio Onda Rossa, questo è il martedì autogestito da femministe e lesbiche, così un po' di coordinate spazio-temporali, sembra che ve eravate perse. Sì, no, perché magari ascoltate, sentite tutte queste cose e dice, ma chi è? Ma chi so ste due? Cioè, che è Spirito di Patata, cioè, ma proprio spirito, è proprio molto, cioè, molto spirito, spirito qua. Ma non avevamo un altro fantastico articolo, scusa, di quella rivista somma e meravigliosa, no, con la Bibbia di noi altri? No, io volevo fare un commento su la pubblicità della Findus, che tutti e tutte hanno visto. Non si può dire Findus? Che ne so, no, che si può in dire? Teoria non si poteva. Ogni volta che qualcuno dice siamo circondati da marchi, la gente glieli passano sopra la testa, però poi qualcuno quando le dice uno, hai detto no. No, allora perché? Perché chi l'ha visto, ci sono dei cartelloni visto? Pubblicitari, sia in TV, non puoi non averli visti, non perché a Roma li hanno fatti 40 metri per 40. No, poi l'hanno fatti ovunque, hanno speso tanti soldi, adesso che gli piaceva molto, hanno pensato, ah, che cosa originale, parlare di che cosa? Parlare della donna di casa, che cosa di originale, proprio, Che cucina. Che cucina, che cosa originale proprio, Quindi come avete... sono proprio attenti, cioè, avete proprio investito. Pubblicitari. Sì, proprio. Quale fantasy che quale fantasy proprio tanta. Io devo dire che ci sono tante cose da dire. Ma tante, però. Abbiamo parlato un sacco di volte, la nostra Elisabetta che cura la virgola, che poi ha scritto anche un libro ora e qui, un po' più serio di delle analisi che facciamo noi qui a Spirito di Patata. Cosa vorresti dire? Parla di questo ricacciamento del femminista al femminile. Ricacciamento, segnatevi questo nuovo termine. Brave, perché a noi ci hanno mandato a scuola per sbaglio. Poi però abbiamo fatto altro, quindi si può dire, sostanze. Si può dire ricacciamento. Perché io sono per i nuovi termini da sempre. Delle tematiche femministe invece a quelle alla sfera del femminile, un ritorno agli anni 50. Quindi cancelliamo tutto quello che si è conquistato negli anni 70, le lotte, i diritti, e torniamo appunto a quella sfera familiare. Quindi a me sembra che oltre ad esserci questo procedimento culturale, c'è anche un procedimento estetico, cioè questa riproposizione degli anni 50, molto spesso, che a me a livello estetico mi piacciono pure, questo richiamo all'estetica degli anni 50, ci stanno facendo serie TV, pubblicità, e una di queste pubblicità è proprio questa della Findus, in cui sembra molto innocente, perché ironicamente ti dice, mamme, non date più i ravioli dei quattro salti in padella ai vostri figli, se no rimangono là fino ai 40 anni, quindi è colpa vostra. È colpa è perché te gli stiri la camicia e gli prepari la cena. Oppure, mamme, donne, mogli, non preparate più i cappelletti altrimenti del sugo, perché se no vostro marito non vi porta a cena fuori. È colpa tua, perché te cucini troppo bene, poi tuo marito sei in pantofola se te cucini troppo bene. Sì, perché ovviamente sempre per il teorema cornuti e ammazzati. No, anche per il teorema che è sempre colpa tua. Esatto. Comunque vanno le cose. Che proprio che palla, che basta, costa quei due ovali. Che noia, che barba. Che noia, questa ironia che fa passare comunque anche il più becero degli stereotipi. E che barba, che noia, questo arcaico stereotipo che è la donna oggetto e la donna di casa. Cioè, non se ne esce. Salvateci. Io e Claudia ve lo diciamo un sacco di volte, cavolo, siete pubblicitari, vi pagano fior fior di 1.000 euro, ma due idee nuove tiratele fuori. Ma due, mica tante. Due. Sì, due che non siano le tette e il sedere, quindi c'è altro che non inviate. Sia la mamma a casa coi figli, ce la possiamo dovremmo incoraggiarli forse. Sì, facciamo sì, del sì. Training per i nostri pubblicitari, o soprattutto una call alle pubblicitarie, salvateci voi, ci saranno pubblicitarie, salvateci voi proprio. Qualcuno se inventi qualcosa, meno male che deve essere un mestiere creativo, l'unica, cioè non fanno altro che riproporre proprio aiosa lo stesso stereotipo tu sempre, salvateci, qualcuno ci salvi. Vabbè, noi vi abbiamo salvato dall'intervista della fidanzata del Pelliccia, perché però cercatela perché anche quello è un documento, perché non rende, perché abbiamo deciso che non rende molto a livello audio. Bisogna vederla, ci sono delle chicche in cui sì, ve lo dovete vedere, cercatela. Anzi, noi tra poco la postiamo nella nostra fantastica pagina del social network più famoso del mondo, che ha più persone, più popolato del Brasile, quindi quasi quanto la Cina. E perché vi diciamo questo? Perché ci piace che voi diventiate i nostri supporters, supporters. Quindi vi ricordate, non si vince niente, manco le caramelle, ci vince tanta simpatia da parte nostra, quindi cercateci, spirito di patata. Noi siamo in chiusura, chiudiamo con una canzone, un samba, che si dice un samba, non si dice la samba, una samba, si dice, chiudiamo con un samba, Teresa è sempre più veloce, dovete riuscire a dirlo a questa velocità, altrimenti non vale. Va bene, oggi vale, non vale. E oggi non ho neanche bevuto, neanche nessuna, nessuna che ci porta le patatine. Oggi comunque non ci volete bene, non ci fate gli squilletti, non ci chiamate. Teresa Cristina e gruppo. Pensavo che erano delle mie. Stavamo già accusando di qualcosa. Dove siete? Dove siete? O Teresa o Cristina? No. Aveglia Guarda da Portela, ci ascoltiamo appunto questo samba che si intitola Cose Banali. Coisas Banais. Eccovi. Coisas Banais. Io dall'altra parte del vetro, belli gli squilli, vi amiamo. E a tra due martedì. Ciao. Ciao. A gente faz com o que tem. Se a gente ama de verdade, orgulho, vaidade, desamor são coisas banais que só têm utilidade pra machucar o nosso amor. São coisas banais que só têm utilidade Things have come to a pretty pass. Our romance is growing flat. For you like this and the other.